Il punto di Stefano Folli. Più che una sfida alla minoranza del Partito Democratico, la fiducia posta dal governo sulla riforma del lavoro è un modo per trarsi d'impaccio e mantenere la propria credibilità riformatrice verso l'opinione pubblica, quella interna fatta di elettori che prima o poi saranno chiamati alle urne e quella esterna europea, ossia i governi dell'Unione che da tempo scrutano l'Italia, nonché i vari organismi che devono decidere se siamo abbastanza affidabili. A cominciare, è evidente, dalla commissione ancora per poco presieduta da Barroso, quella commissione che potrebbe bocciare la legge di bilancio proposta dalla Francia in quanto lassista, l'opposto di quanto chiede la rigorosa Germania. In altri termini, la nostra riforma del lavoro è solo un tassello di un più generale confronto che anima la scena in Europa e potrebbe deciderne il destino. Ecco perché Renzi è obbligato a fare in fretta. Tanto di sicuro il governo non cadrà. E l'incontro di stamane con i sindacati sarà abbastanza sbrigativo, niente rispetto ai riti infiniti della vecchia concertazione, ma erano altri tempi in tutti i sensi.